C'era in Sicilia un grande movimento, che chiù si sviluppava in ogni canto. Era guidato da uomini d'intento, decisi a tutto e privi d'ogni scanto. Per la Sicilia nostra liberare e un altro stato libero formare. Però c'era bisogno da lottare se indipendenza si voleva avere. Nascere lunghi e fare s'ammazzare, con l'arma in mano soffrire e patire. A tale scopo quindi si formava un esercito, che Eves si chiamava. Turi Giuliano s'entusiasmau, l'idea ci parse buona, l'accoghiu. Se la Sicilia è libera, pensavo, cancia di certo lo destino mio. Ci sarà un'amnistia, sicuro, e lo passato si cancella pure. Io non resto un personaggio scuro, che divento un pezzo fatto per davvero. Forse un ministro e la famiglia onoro, e non un brigante che non va lo zero. Ritorno un uomo rispettato onesto, libero senza macchia presto presto. Pensando che sto fece un manifesto, che lo fece a pezzare in ogni posto, che fu pittante davvero funesto. Pila manera come fu composto, che Giuliano aprì l'arruolamento per rimborsare lo sorreggimento. E è soddisfatto ne fu contento, che tanti e tanti ci resero conto. Risposero l'invito a cento per fare il regno, la Sicilia, appunto. Con entusiasmo, con coraggio e fede, per chi lo bene futuro ognuno credi. E Giuliano raccossì si vide capo supremo di da gente e godi. E certo della vittoria e sorridi, sentendo che ci fanno tante lodi. Dei caporali vesti la divisa e si dispone per da nuova impresa. La battaglia incominciò dura e decisa, e sotto la bandiera giallo rosa un brutto destino sopra tanti pesa. Alla morte rincoggio se ci posa, ma vana fu la lotta e pur vano lo sogno fatto Turi Giuliano. Spirtio la battaglia mano a mano, a Montelampo ci fu un corpo inchino, smobblatau l'esercito isolano. Cara così decise lo destino, Turi Giuliano sempre sverto d'anca, tagliò la corda e sì la fici franca.